innamorati, come tuoi innamorati, per gelosi cozzare, mi dica, signore, hai visto mai le braci, e gelosi cozzare. Olle la vostra corna, olle la vostra corna, riguari la sinanna, riguari la sinanna. E come ti ti fanno, Dio, l'impegno, basta!